stranissime cose si leggono a volte sui quotidiani nazionali. Su Repubblica di lunedì scorso, per esempio, in prima pagina, in taglio basso, Marco Lodovic invita senza apparente motivo ad entrare nella classe di una scuola di periferia. Consentiamo volentieri, ma scopriamo subito che in quella classe non sta succedendo nulla di straordinario. Il professore vorrebbe interrogare un'allieva. Due domandine sono racconto il mio passant letto nella lezione precedente, niente di difficile. E la ragazza si rifiuta tassativamente di farsi interrogare. Il docente insiste, vuol sapere i motivi di quel rifiuto. Non ha studiato, non ricorda, pensa di essere più pronta l'indomani e quella è sempre meno collaborativa. Insomma, una situazione di stallo finché la ragazza non cede e sbotta che lei a venire alla cattedra non ci pensa nemmeno perché non vuole soffrire neanche un minuto. E spiega che nessuno oggi vuole più soffrire, non se ne fosse accorto quel rompiscatole del professore. Tutto qui, Tutto qui, non c'è altro, e mi direte voi se valeva la pena di scriverci sopra un articolo di giornale. Personalmente, in 25 anni di scuola, di allievi riluttanti di quel tipo ne avrò conosciute a occhio 200 o 300. E la motivazione, stringi, era sempre quella, non l'impreparazione, quella non la si dichiara mai, ma uno stato appunto di sofferenza, effettiva o potenziale. Mal di testa, complicazioni familiari, delusioni amorose, mestruazioni incipienti, dubbi esistenziali, fragilità psicologiche, devo averne sentite come qualsiasi insegnante praticamente di ogni. L'unica che non mi è stata mai proposta così nuda e cruda è proprio quella che pure potrebbe unificare tutti quei casi specifici, la volontà, come nell'articolo di Repubblica, appunto di non soffrire. Non credo d'altronde che se la sia sentita enunciare in quei termini nemmeno l'imprecisato collega di quella imprecisata scuola di periferia. Se fosse accaduto davvero, la ragazza, pur imprecisata anche lei, meriterebbe di essere additata quale esempio di schiettezza e sincerità, e come per una risposta assai meno eclatante capitò George Washington. E anche se Lodoli non spiega come sia andata a finire, se con un va bene resti pure dov'è o con un due sul registro, è ovvio che chi ha il fegato di rispondere in quei termini in genere spiazza l'interlocutore al punto da avere parecchie probabilità di farla franca. Una giovane genia dunque quella ragazza, una di quelle studentesse che a scuola possono permettersi di fare quello che vogliono perché tanto non hanno nulla da imparare. Ma in realtà l'episodio puzza assai di inventato, ed inventato per permettere all'articolista di scaricare sul lettore le considerazioni che di fatto gli fa seguire, e lo si capisce persino dal titolo generalizzante «Se i ragazzi non sanno più soffrire», e dall'occhiello per cui le parole di quella giovane sono il simbolo della nostra società. Non si tratta solo di cogliere facili agganci con l'attualità. Scrivendo che in fondo questo deve essere lo stesso pensiero che ha portato i quattro studenti del Parigi ad allagare la scuola, figuriamoci, l'ambizione è più alta. Nelle parole della presunta renitente, l'autore riesce a leggere la verità centrale della nostra civiltà, ciò che prima l'ha resa così straordinaria e ora la rende così fragile, perché a suo dire, citazione, aperte le virgolette, contro la crudeltà della natura, contro la violenza degli uomini, i nostri maggiori hanno inventato l'anestesia, lo stato sociale, il tempo libero, il divorzio, l'aborto, le medicine, il cinema e la televisione, i centri anziani e le ferie, i bar e il campionato di calcio, il laicismo e il diritto al piacere. Hanno inventato insomma un modello di società analgesica ed edonistica, anche se non si capisce cosa c'entra il laicismo, un modello che adesso traballa per lo stesso motivo per cui si è imposto. Come a dire che la nostra capacità di sopportare le difficoltà, è sempre una citazione, la nostra capacità di sopportare le difficoltà, di raccogliere le energie di fronte a una piccola salita, di pretendere qualcosa di più da uno sforzo anche esiguo, ormai si sta esaurendo, con il risultato che noi, figli di questa età imbelle, diventiamo deboli e la sofferenza se ne accorge e torna in forme nuove a minacciare quanto di buono è stato costruito, e insomma, occhio ragazzi, che mal ce ne incoglierà a tutti. A prima vista non c'è niente di più ragionevole, e niente di nuovo, visto che l'idea per cui bisogna sapere affrontare il dolore, perché nella capacità di interiorizzarlo, di dominarlo, sta la radice della forza morale, è alla base di una delle ipotesi più vecchie e più fortunate della storia dell'etica, quello stoicismo che domina incontrastato il pensiero occidentale almeno dal IV secolo avanti Cristo e che è riuscito a sopravvivere alla grande a qualsiasi trasformazione culturale e religiosa, compreso l'avvento del cristianesimo. L'ipotesi concorrente, quella che si richiama al nome del grande Epicuro, e vede il dolore come qualcosa da cui è opportuno stare quanto possibile alla larga, sarà forse più fondata nell'esperienza, perché in natura, in fondo, il dolore è stato inventato appunto perché ne evitiamo le cause, ma ha sempre avuto meno fortuna con i dotti e meno ancora, va detto, con i potenti. Perché compagno ineliminabile della sofferenza, si sa, è la paura. E un mondo retto dalla paura è molto più facile da governare da uno in cui quel sentimento sia poco o punto diffuso. Anche se non è da tutti saper dominare il dolore, la morale stoica ha avuto il successo che ha avuto perché è sempre stata in un certo senso una morale a due livelli. Il saggio ci riesce con le sue forze ed è abilitato a comandare. I meno saggi sono aiutati nella difficile ricerca del bene dalla paura di ricevere una dose maggiore di legnate e così gli tocca obbedire. Gli epicurei insegnavano a eludere il dolore mediante la ricerca della verità, ma quella su via era una morale da uomini liberi, una dottrina pericolosa da scoraggiare, come è stata scoraggiata di fatto, con la paura dell'inferno e, se necessario, del rogo. Sono anche queste, me ne rendo conto, considerazioni banali, ma provate a rileggere alla luce di queste considerazioni l'episodietto riportato o inventato su Repubblica. E quello che irrita davvero il professore dell'Apologo, se ci pensate, è non riuscire a mettere paura alla sua allieva. È una problematica ben nota a chi abbia qualche pratica di insegnamento. Io ricordo che era la crisi di quello strumento didattico principe, lo scoprirsi d'un tratto incapace di fare paura, che mandava in bestia i miei colleghi quando negli anni della contestazione studentesca, non so se ricordate, muovevo i primi passi in quella carriera. Ed è nel tentativo di rimettere in mano ai docenti quell'arma che è consistita la trentennale opera di restaurazione che da una riforma all'altra ha portato la scuola italiana nelle pietose condizioni in cui è adesso. Perché se no, invece di discettare sulla decadenza morale delle giovani generazioni, che è un argomento su cui i moralisti ce la menano dagli anni del Neolitico superiore, l'autore avrebbe potuto utilmente interrogarsi sul perché mai in una scuola funzionante secondo logica un'interrogazione dovrebbe fare soffrire. L'apprendimento, che è un processo complicato di cui possono anche far parte a volte le verifiche, potrebbe essere un percorso gioioso. E in effetti, cosa ci potrebbe essere di più piacevole per un giovane che parlare con un audutto disponibile di letteratura, a partire magari da una novella di Maupassant? Certo, quella piacevolezza finisce con l'essere alquanto sminuita se il giovane ha motivo di pensare che l'adulto in questione lo sottoporrà alle più orribili ritorsioni nel caso mostri di non condividere i suoi punti di vista. Ma in questo caso, scusate, la responsabilità di chi è?